con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci viene più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat di Firenze e radio collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. E ricordiamo il nostro sito www.giordanobrunomi.wordpress.com e che è già in distribuzione il calendario anticlericale 2021 e che si può richiedere all'editore siciliano info@sicilialibertaria.it. Un saluto anche alle radio collegate di Bologna e Genova. Iniziamo dal piccolo dizionario di terminologia atea e anticlericale. Disonestà palese è un dizionario appunto in ordine alfabetico. È quella dei redattori dei Vangeli, in cui si riscontra abitualmente quando citano a sproposito alcune profezie bibliche come avverate. Da Mario Trevisan, un autore anticlericale veronese. Dittatura spirituale. Il cattolicesimo e altre religioni la imposero con sanguinose violenze a stati piegati ai suoi comandi. Divino zuzzerellone, Dio si divertirebbe a giocare a nascondino con noi ed avrebbe un gusto perfido di fregarci. Da Renato Testa, autore anticlericale, anche lui di Verona. Doppio pesismo è insieme all'ipocrisia un valore morale tradizionale della Chiesa nostrana, dall'ateo del 2014. Passiamo ora ai detti anticlericali. Verrà il giorno in cui la mistica nascita di Gesù ad opera dell'essere supremo come padre nel grembo di una vergine sarà considerata come la favola della generazione di Minerva dalla testa di Giove. Lo disse Thomas Jefferson, presidente USA, verso l'inizio del secolo XIX. Il cattolicesimo in mano al Papa, ai cardinali, ai vescovi e preti non è altro che un mezzo di industria, una macchina di ignoranza e di servaggio. Da Enrichetta Caracciolo, ex monaca napoletana del secolo XIX. Egoismo, avarizia, leggerezza, stupidità dei devoti, volgarità adorna. È quello che vedo qui. Il confessionare è una sorta di tana in cui la curiosità, il vaniloquio, l'imbecillità si contendono le coscienze di alcune donne isteriche, logorroiche e sfaccendate. Da Abate Mounier, 1853-1944. Altro detto di Bertrand Russell, 1872-1970. Dopo aver esaminato attentamente le prove, affermo che non esiste la benché minima ragione per pensare che esista un essere divino. Passiamo al calendario anticlericale 2021. 14 febbraio 2019. La diocesi di Brooklyn pubblica nominativi di 108 preti pedofili. 15 febbraio 1995. Arrestato per mafia a Palermo l'ex senatore democristiano Enzo Inzerillo. 16 febbraio 2019, ennesimo regalo dell'Italia al Vaticano, le sue lauree valide anche in Italia. 17 febbraio, anniversario del rogo di Giordano Bruno, e comunque qui viene citato 17 febbraio 2019, pedofilia ecclesiastica, il Papa caccia il cardinal McCormick colpevole di molestie sessuali. 18 febbraio 1592, Papa Clemente VIII vieta agli ebrei romani il commercio di oggetti nuovi, quindi le solite discriminazioni antisemite e clericali. 19 febbraio 2019, abusi. Le suore rompono il silenzio, chiedono una commissione d'inchiesta. Abusi da parte dei preti. 20 febbraio 2019, scandali clericali. Il Corriere della Sera svela le regole segrete dei preti con figli. Viva il libero pensiero, ora e sempre resistenza anticlericale. Passiamo a notizie raccolte questa settimana. Da Cronaca Vera, il solito santone che abusava della credulità popolare. Col suo finto progetto divino si è riempito le tasche. L'uomo ex assicuratore faceva credere di lavorare con preti esorcisti, ma non era vero niente, era un truffatore che si era intrufolato perfino al santuario di Quercioli a Massa. Abbasso il Papa, abbasso il Vaticano. Prete indagato per abusi su minori a Enna. Il vescovo sentito in procura da www.aci.it. Non abbiamo ricevuto niente dalla curia, ha detto il magistrato. Abbiamo sempre attivato la procedura canonica informando le autorità ecclesiastiche. 21 gennaio 2021, vedremo come va a finire. 8 anni di carcere per riciclaggio, condannato Caloia, ex presidente dello IOR, dal Corriere della Sera del 22 gennaio 2021. I soliti scandali finanziari del Vaticano. La RAI, Radio Apostolica Italiana, si distingue sempre per le sue complicità clericali. Per esempio, in un documentario mandato questa settimana sul Mein Kampf di Hitler, non si parla del fatto che un prete, cappellano del carcere, lo aiutò a scrivere, a correggere le bozze del suo libro malefico, antisemita, razzista, il Mein Kampf. Abbiamo poi un bel fotomontaggio dal Fatto Quotidiano del 9 febbraio, dove c'è Matteo Renzi travestito da Papa. Per meriti umanitari è stato proposto come prossimo Papa col nome di Pio per culo. Abbiamo poi da Alias, supplemento del manifesto del 6 febbraio 2021, pagina 11, Dio, Carlo Rovelli, l'inseminazione artificiale. Questa pratica medica legale in tanti stati è illegale sul territorio dello Stato italiano dominato dai clericali. Ma che diritto hanno i cattolici di fare questo? Hanno dimenticato che la loro religione si fonda sulla credenza in un rapporto artificiale di Dio con una donna che per questa via ha concepito il figlio di Dio? Una credenza non fondata sulla realtà storica, bensì sui soliti miti fantastici. Tanto è vero che ho mostrato criticamente e filologicamente nel libro Vangelo laico secondo Feliciano, Gesù non si autodefiniva figlio di Dio, bensì figlio dell'uomo. E questo sempre, come dicevo, da Alias del 6 febbraio 2021, pagina 11. Sul concordato, diciamo che lo ricordiamo, l'11 febbraio era l'anniversario del concordato, qualche breve commento. L'11 febbraio 1929 il regime fascista svendeva l'Italia al Vaticano, accordando alla Chiesa numerosi privilegi ed elargizioni di denaro. Nell'84 Bettino Craxi, rilegando le gloriose tradizioni anticlericali e anticoncordatari dei socialisti italiani, firmava un nuovo concordato con un'infinità di nuovi privilegi. Il PC, rinnegando la sua natura marxista atea e i sentimenti laicisti di gran parte dei suoi iscritti, nel 1946 permise la riconferma del concordato clerico-fascista e nell'84 poi votò il concordato craxiano. Il PDS, successore del PC, fece lo stesso. Rifondazione Comunista tacerà sempre anche lei sul concordato. Insomma, sono pochissimi i politici che osano contrastare questo strumento di potere del Vaticano. Rilanciare l'anticlericalismo, avanti con l'ateismo, lotta dura per la laicità delle istituzioni. Mi è arrivata una foto satirica sulle ricchezze clericali. Si vede il cardinal tedesco Marx. Trasformare l'acqua in vino fu solo un esercizio preparatorio. Il vero miracolo fu quando trasformarono la fede in oro. Prete, se lo conosci, lo eviti. Concludiamo con La Repubblica del 10 febbraio 2021, pagina 33, dove si ricorda appunto il martirio dei patrioti italiani che combatterono contro i franco-pontifici al Gianicolo all'epoca della Repubblica Romana del 1849. Le fiaccole accese, una cerimonia sottotono, come Covid comanda, e immancabile corona di fiori dei garibaldini, insieme a una rosa, sulla tomba di Mameli. Il cielo si apre a tratti a quella luce pura, pure l'aggettivo più enigmatico e fondativo della Repubblica Romana, quando venne pronunciato in Campidoglio il 9 febbraio 1949. La Repubblica Romana nacque alla fine dell'inverno 1849, visse di primavera e morì il 4 luglio, all'inizio dell'estate, abbattuta dai francesi, chiamati dal Papa. Benissimo, saluti a tutti gli amici e compagni che hanno seguito il notiziario anticlericale. Arrivederci alla prossima puntata. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori i denti. Ormai salvare anche tu.